Ciao a tutti. Ciao Anna, benvenuta. Ciao. Coreografa, ricercatrice, sì, insomma tutta la solfa, dopo ti tocca, mi spiace, dobbiamo fare le cose fatte bene. Fare a modino, lo sai che sono a un modino. Po' signorina Rottermeier, bene. Le cose fatte a modino. E che infatti testimonia la legge dell'antica tradizione del coxo, che chi ci viene una volta prima o poi gli tocca di tornare. E stavolta t'ho incastrato a te e tu a tua volta hai attaccato questa cosa ad un'altra, alla seconda super mega galattica ospitessa di questa puntata, il cui numero è ancora un po' nel mistero, ma sicuramente siamo sopra i 300, abbiamo fatto 300 coxi, e Sara Giordani. Ciao. Che lei. E allora, sì, ok, perfetto. E siamo qui per parlare di danza. Dico bene? Sì. Ma perché... Danza e collettività, diciamo così, no? Ci piace. Sembra una cosa seria, sembra. Sì, ma è coxo spaziale. Lo sapete, voi eravate, forse tu, Sara, no, che è la prima volta, ma qui sì. Ti toccherà di scoprirlo. Allora, danza, ricerca, socialità. Collettività. Collettività. In particolare Anna Albertarelli, l'abbiamo detto, lo ribadiremo, approfondiremo, coreografa, danzatrice, ricercatrice, formatrice, che ha attraversato tantissime mondi paralleli di questi linguaggi che sono appunto nel corpo. E Sara Giordani, che ci racconterà, visto che è la prima volta, ci devi un po' meglio raccontare poi da dove vieni, come mai, no? Io so che sei friulana. Sono triestina. E sei qui come direttrice dell'associazione culturale Sama, che è arrivata qui a Bologna da un paio d'anni. Sì, è nata qui a Bologna, non è arrivata, è proprio nata qui un paio d'anni fa, e in questo momento gestisce uno spazio in centro, in via Zamboni, vicino all'Accademia di Belle Arti. E non chiedermi che cosa fa Sama, per favore, perché è sempre molto complicato spiegare di preciso che cosa fa, perché a Sama trovano a casa attività molto diverse, intergenerazionali. Si va dai corsi di movimento olistico per anziani fino ai laboratori creativi per bambini, passandosi per la danza, le pratiche somatiche, i laboratori di espressività vocale, le pratiche vocali. E Sama è nata come un modo, con un pensiero fondamentalmente. E Sama è nata come un luogo dell'umano, nei suoi diversi aspetti, nei suoi diversi livelli, il corpo fisico, sì, ma il corpo mentale, il corpo sottile. E nasce con questo intento, come luogo di pratica, ma come luogo di ricerca artistica, come luogo di espressività. Beh, tu mi dici di non chiederti che cosa si fa, ma io spero nel corso di quest'oretta di poter un po' andare a grufolare, a scavare un pochino. Grufoliamo. Grufoliamo insieme. E invece, nello specifico, sei qui in qualità di super mega galattica ospitessa del 302esimo coxo. Forse tre, grazie. E per presentare un nuovo progetto di ricerca, che proprio nuovo non è, però è abbastanza giovane rispetto ai percorsi frequentati da Anna nel corso qua in pappino viene fuori decennale, poi decennale c'è, però poi viene fuori l'età che si può desumere. No, ho già capito, mi sono un po' persa. Allora, questa nuova esperienza. che quindi si tratta di cosa? Si tratta di una balera spontanea. Balera? Balera. Ma sì. Proprio quella dove si balla? Sì, quella dove si balla. Quella del liscio. Sì. Quella del liscio. Quella del tango, sì. quella roba lì. Polca. Tu anche. Valzerino. Sì, sì, valzerino. Però c'è anche la milonga. Ma siamo sicuri? Però c'è un po' di tutto. Ok, allora facciamo così, siccome è stata per me un po' una doccia fredda, che mi ricordo queste belle musiche di ricerca che spesso faceva anche il tuo e passare alla polca. Destabilizza un po' questa cosa. Io direi, immagino. Facciamo così, fatemi entrare bene. Un tipo Romagna mia di Casadei. Ma sì, dai, iniziamo così, dai. Vediamo quanta pubblicità ci darà YouTube. Però guarda, io ti consiglio un piccolo fiore di Carlo Venturi. Aspettami, che siamo un po' più nel ricercato. Ma fregato l'Albertarelli. Piccolo fiore di Carlo Venturi. Oh, c'è anche di Vasco Rossi, siamo sicuri che... Carlo Venturi, trovato! Eccolo. Vediamo se qui ci saranno un sacco di pubblicità prima che parta, forse no. È vero, è proprio Lissio, Anna. È proprio Lissio, sì. Anna, ma che meraviglia! Lo so, che destabilizzante. Spiegami, cosa, ma perché? Perché? Anche a me delle volte quando ci penso mi destabilizzo anch'io, però poi. Parliamone, ne siamo qui noi del Cox, siamo amici degli artisti, dei ricercatori. Esprimiti, no? No, allora vabbè, dai, andiamo alle origini. Sì, scherzi a parte, so che queste balare spontanee sono partite 2 anni fa. Sono partite 2 anni fa. Sì. Non sappiamo bene se era il 2018 o il 2019. No, era un po' era da un po' che era nel cassetto. Perché vabbè, alcuni lo sanno già, io sono un insegnante di contact improvisation. Tra le altre. Quindi, vabbè, ecco. Ma diciamo, come danza principalmente insegni quello? Sì. Ormai okay. Sì, è teatro fisico. Però, insomma, cosa presuppone la contact improvisation? Dico per chi non conosce, è una tecnica di danza dove si lavora a coppio o in gruppo e si improvvisa. La sto semplificando molto. Mm-hmm. E quindi questo contenitore ha a che fare principalmente con chi frequenta l'ambiente della contact improvisation, quindi la comunità della contact, che ha delle strategie di improvvisazione che sono dentro a quella tecnica, no? Oppure dai danzatori in generale. Quello che mi interessava, perché mi interessa in questo periodo, è il discorso della contaminazione. Che parola che hai usato proprio adesso, che scusa, appunto, tutta la città. Lo dico forte e chiaro, no, contaminazione. Ma non mi mandare fuori i decibel, che le persone che ascoltano magari in cuffietta, poverini, di timpani gli servono. Vabbè, scusate, mi sono fatto un attimo nel panico anch'io. No, allora, riprendendo le fila, quindi tu diciamo che l'occasione di questa balaria spontanea come immagine, come pensiero nella tua testa, nasce a partire da un territorio che non lo si direbbe mai che c'entra qualcosa, giusto? La contact improvisation. Si va per contaminazione e l'anno scorso, magicamente, un giorno... No, ho cominciato a pensare, ma perché non unire un po' l'humus, no? Di chi abita la contact con chi invece abita i paesaggi delle danze popolari o le danze di coppia, no? Mm-hmm. Che possono essere il valzer, il liscio, ma può essere anche il tango, ma come il boogie boogie, no? Con l'idea di, come si dice, reinventarsi un modo di danzare insieme senza l'obbligo di imparare i passi a memoria, che è una cosa che un po' stringe, mm-hmm. Soprattutto io, per esempio, dopo un po' mi rompo le palle, lo dico, si può dire? Mi rompo le palle alla radio? Non so, se no mi rompo i coxoni. Va bene, mi rompo i coxoni. E stavo dicendo, eccoci, e quindi trovare una formula che possa inglobare le due cose, no? Quindi l'humus dell'ambiente, del liscio, e dove ti porta anche l'umore, no? Quando tu ascolti un valzer di Carlo Venturi, cosa comincia a sentire dentro al corpo. E questo è vero, perché adesso abbiamo cambiato ascolto e siamo finiti nella solita musica a tappeto sonoro che metto io, che però effettivamente è un po' anche qui un pochino... Cos'è? Non sento poco. Alza. Perché no? Potrebbe essere anche questa una danza. Sì. Ecco, ok. Non è che deve essere per forza liscio, attenzione. Perché poi in questa puntata attraverseremo con mia enorme gratitudine, perché senza di te non lo farei mai, magari ascolteremo anche dei brani di quelle cose che si chiamano tipo polche. Sì, oppure quelle cose che io non conosco perché ho sempre evitato come cosa. Ma io veramente qui c'ho anche Sara, come cosa ho evitato? Come la trippa. La trippa? Come la trippa. Ok, grazie, molto gentile. Tu sei un'ottima sostenitrice di, com'è che abbiamo chiamate, accoglienza dell'attività umana? Direi di sì. Allora, per chi si fosse collegato adesso, il 302esimo o 303esimo Coxo è in diretta da Radio Città Fujiko insieme ad Anna Albertarelli, danzatrice, coreografa, ricercatrice, formatrice, e Sara Giordani, che fra quello che poi magari riusciremo a scucirle di altre cose, è qui come direttrice dell'Associazione Culturale Samà, che ospiterà questo nuovo progetto, questa nuova fase del progetto che è cominciato l'anno scorso di Anna, Balere Spontanee, e che è anche molto brava a sostenere l'espressività della qui presente speaker. Sì, siamo anche un luogo di ascolto. Quindi. Sei anche un luogo di ascolto, ottimo. E quindi noi sin qui abbiamo ascoltato qui adesso c'è un altro valzer, Ruggero Passarini, ricordo. Va bene, se no puoi andare, possiamo andare in Francia, possiamo andare forse ti piace di più, Les Négrettes Vertes. Ma come si scrive però? Les Négrettes. Ah. Forse ti piace di ci pia- non, ci, non, non so se sono ancora insieme, però. Vertes. Sì. Ok. E poi c'ho un Zobi la Mouche. Oui. Ecco qua. Ok. Sì, forse. Volumino un po' basso, provo. Oh. Ehi! Hey. Ah, vous me reconnaissez? Ah, c'est moi! Sauvé! Il video lo consiglio a tutti. Sì, il video fa. Teniamocelo di sottofondo. Sì, questo dai. Cos'è? Beh, questo secondo me è un misto fra musica etnica spagnola, flamencata. Questo è un gruppo degli anni 90, no? Era Les Négrettes, esatto. Mm. Quindi la ricerca anche etnomusicolografica è stata fatta. Sì, certo che sto ancora facendo, sì, comunque sì, è stata fatta e continua. Ho trovato delle cose fantastiche russe dell'est dell'Europa. E come ti muovi da questo punto di vista? Principalmente, vabbè, cerco su YouTube. Anche tu? Cerco i collegamenti su quelle che sono, parto dalle le cose tradizionali e poi dopo man mano ti compaiono tutte le correlazioni, quindi mi vado ad ascoltare, passo giornate a sentire le cose. Quindi poi stai facendo proprio ricerca? Sì. Ma dimmi una cosa, quindi, la prima scintilla di questo progetto, proprio come piano pratico da attuare? Allora, la prima cosa è, andiamo un po' nel corpo fisico, no? Con questa cosa che diceva del luogo Samà, che lavora sul fisico. Cercavo di fare. Allora, la contact improvisation spesso si lavora a terra, ci sono dei caricamenti sulla schiena, quindi c'è tutta una dimensione spaziale che va su una dimensione anche verticale, no? Mm. Allora cercavo un modo di invece sviscerare questa cosa su un piano orizzontale, no? Che è quello che succede quando si balla in coppia, no? E con l'idea proprio di scivolamento, no? E con l'idea anche di non fare, come dire, troppa fatica, cioè di non affaticare troppo le articolazioni, la schiena, però mantenendo l'idea di improvvisazione, cioè continuare ad avere comunque l'aspetto teatrale, espressivo, di improvvisazione, che devono essere il fulcro, no, di questa cosa. Ok, quindi questo era come stavamo partendo nel 2018-19. Quindi hai fatto delle ricerche, mi ricordo in effetti qualche appuntamento cui mi era giunta voce per cominciare a... E da questo che cosa è emerso? Perché quello che mi sembra al momento è che questo percorso si sia sganciato da quello che era la prima riflessione, e si sia sganciato dall'universo contact e sia diventato qualcosa di completamente... Sì. Universale, sì, forse. Sì, sì, esatto. Non posso. Parliamone, più. Alberta. No, non posso più chiamarla contact improvisation. Però anche lo spunto è stato quello. Sì, si può dire che si passa dalla contact improvisation per gli amanti della contact improvisation. Che sono anche abbastanza pochi in questa città. Insomma, pochi ma buoni. Quindi lasciamoli lì, che loro ci sono già. No, vabbè. Comunque sì, si parte da lì, però si va decisamente altrove. Si va in una dimensione espressiva di danza di coppia, però improvvisata. Ecco, quindi diciamo che questa balera spontanea durante lo scorso anno ha fatto la sua incubazione. Ha fatto la sua ricerca, si è sviluppato. Scusatemi, e quest'anno a marzo comincia la sua, diciamo, fase più evoluta con un circuito, con un calendario di appuntamenti. Ci sono. Allora, intanto, vabbè, faccio una piccola biografia. È stata fatta in due festival quest'anno, al Festival di Peraspera e una situazione cittadina che è stata fatta a settembre, dove per esempio dopo di me c'era un DJ molto bravo che lavorava anche lui sull'interazione fra la musica elettronica. Ma quindi era qualcosa anche di fruibile, le persone ballavano a loro volta. Era aperto a chiunque. Ma quindi questo, perché come ricerca il nome Balera Spontanea me lo posso, ma come restituzione a un pubblico Balera Spontanea mi porta a una partecipazione de... È una come danza funziona? Non è né una performance, è un laboratorio, no? Che però a seconda del contesto in cui viene inserito può essere semplicemente un laboratorio in un luogo X o se no può essere come è successo per Peraspera, dove c'è stato un coinvolgimento delle persone che erano lì in quel momento, quindi bambini, adulti. E quindi queste persone formate andavano a raccattare e dicevano no, io non voglio, li prendevano per la mano e poi le trascinavano in questa... Sì, esatto. Wow! Ne abbiamo fatta una che poi purtroppo è saltata per motivi di tempo, cioè di brutto tempo, di maltempo, però io collaboro anche con due musicisti molto bravi, è una chitarrista, Elisa Misolidio è un clarinettista molto bravi e ogni tanto insomma facciamo questa cosa, la facciamo insieme. Ok. E come sono state le reazioni di questi due appuntamenti? Ma la gente si è divertita molto. Sì, sì. Fondamentalmente serve per far star bene insieme alle persone e non farli sentire l'idea di non posso ballare, non sono capace, no? Ecco, questa è un po' la frase che viene fuori, no? Non sono capace, non ho voglia di imparare i passi a memoria, no? Allora lì durante la balera stompana non ci sono passi da imparare a memoria, c'è solo mettersi in ascolto dell'altra persona con delle cose che sono molto semplici, è una cosa molto, molto semplice. Sì. È un modo di mettersi in relazione danzato, no? Esatto. Allora, a proposito di danza, ascolti, fammi a sentire qualcos'altro. Allora, si mette gli occhiali, diventa la professora. Sì, perché non vedo più un tubaccio. Ma no, è perché sei la professora. Che ascoltiamo? Che ascoltiamo adesso? Facciamo. Ma sì, dai. La cantata dei partigiani. Allora, loro però come si chiamano? Loro sono. Aspetta. Dove sono? Aspetta. Era una piccola anticipazione. Come si chiamano loro? Riesci a leggere Sara qua? Che anche con gli occhiali. Quindi non solo suggeritrice, anche occhi per... Materiali tradizionali, dai. Che non materiali? Sì, materiali tradizionali. Tradizionali. nazionali. Io sono pure dislessica, quindi puoi anche scrivere. Cantata dei partigiani, bonifica emiliana veneta. Ma qui c'è scritto materiali tradizionali, però vabbè, prova. Ok, provo bonifica emiliana veneta. Il nome non sembra male. A proposito. Nel Piemonte ci sono i partigiani ad aspettare, guardando nella valle all'orizzonte, aspettano il momento d'attaccare. Se un dì potrò laggiù ritornerò, la mamma e la bella bacerò. Sui monti il partigiano vive e muore, combatte con orgoglio e con valor. È grande la passione che ha nel cuore, scacciare dall'Italia l'invasor. Se un dì potrò laggiù ritornerò, la mamma e la bella bacerò. Se un dì potrò laggiù ritornerò, la mamma e la bella bacerò. Cox spaziale. Ed eccoci di nuovo in diretta per il 300esimo Cox. Insieme alla coreografa, ricercatrice, formatrice Anna Albertarelli, grande amica del Coxo, e Sara Giordani, nuova amica del Coxo, che siamo anche... Dai, per piacere, sì, tu mi sei tanto simpatica. Facciamo amicizia, va bene. No, invece purtroppo per contingenze che ci vedono tutti insieme, dopo 7 anni di trasmissione, la nostra rubrica della mezza non può andare in onda, per chi non lo sapesse era questa. L'angolo della menzione. Tu lo sapevi, Anna, che sei una veterana del Coxo, non dirmi di no. No, no, perché purtroppo, date le circostanze, tutti gli eventi di questa settimana sono stati cancellati. Il che ci salva, perché altrimenti avrei dovuto leggere la lunghissima recensione che ha scritto Pasquini, che con l'elenco di nomi degli artisti lunghissimo, che non le edita mai, e quindi almeno da questo punto di vista. Però a me è giunta una bellissima notizia di un qualcosa che accade nel digitale, ovvero che Dimmi Dammi è diventato il primo, secondo, terzo, qua faccio oggi con i numeri le gaffe, singolo delle Cadavere Squisite è su YouTube. Ah. E quindi io direi, mo ascoltiamolo, che sono tanto simpaticone loro. Sì, dai. Ciao le Cadavere Squisite. Dimmi, dimmi. non c'è nessuno intorno a me, ci siamo solo io e te. Tu dimmi bau e mi agolerò, tu dimmi miau e abbaierò. Non c'è nessuno come te, ci siamo solo io e tu. Ogni nostro misterioso nome. Nessuno intorno a me, ci siamo solo io e te. Bevi caffè, io te per me, birra per te, champagne per me. Non c'è nessuno come te, ci siamo solo io e tu. Tu dimmi taci e urlerò, tu dimmi muta e cambierò. Residenza, dislocazione, perché cazzo non abbia fatto la separazione. Potrebbe anche questa diventare materiale per balli di coppia del futuro? Assolutamente sì, andiamo sul 70, va bene tutto. Ma quindi diciamo che la balera spontanea si specializza fino a un certo tipo di... cioè, perché alla fine la balera si è trasformata radicalmente nella discoteca. Esatto. Però la discoteca al momento non ci interessa più. No, in questo momento no, è un altro progetto che sto facendo, che ha a che fare con la discoteca e con i club. Ma non è quello che, che partirà a Samà dal mese prossimo. No, quello che parte il mese prossimo è la balera spontanea. E facciamo così, facciamocelo se le va descrivere da Sara Giordani, che ha deciso di accoglierti. E... allora, partiamo dal fatto che io collaboro con Anna da un po' e quindi le do fiducia piena nelle sue deliri, quindi ha avuto carta bianca anche con balera spontanea. E collaboriamo assieme in realtà in un progetto che si chiama Corpo Poetico, Teatro, Danza e Disabilità e Integrazione, per cui è un lavoro di ricerca molto profondo e che fa scambiare molto. Okay, quindi insomma si è creata una relazione di un certo tipo, anche di fiducia intensa. Quindi voi vi siete conosciuti in quest'ambito qui, quando ti è arrivata con le balere anche te ci sarei rimasta un po' stranita, no? Conoscendola non particolarmente, tanto spara della roba e tu la prendi e le vai dietro. No, balera è un progetto a cui io tengo molto, perché intanto è un progetto di incontro di persone molto potenzialmente molto diverse, no? Dalla vecchietta che va al centro ricreativo fino al giovanissimo danzatore di contact. E questo di per sé lo trovo profondamente interessante, il senso di ricreare una comunità complessa. E poi c'è l'ascolto reciproco, perché per danzare in qualche modo devi entrare in risonanza con l'altra persona, soprattutto se lo fai in modo totalmente spontaneo. Poi c'è tutta la parte di ricerca sia corporea che musicale che sottende il progetto. E poi c'è il fatto di stare insieme e stare bene. Che... guarda, alla fine ti dirò che anch'io spesso mi intrufolo in progetti o cerco di promuoverne. E alla fine quella fa tanto, devono essere situazioni in cui c'è una bella energia, sì, non ci sono fraintendimenti, si viaggia insieme per lo stesso... E poi sei mai stata in una balera? Oddio. No, Fedra, non sei mai stata in balera. Ma hai presente? Cioè, vale quella delle sagre? Assolutamente sì. Allora andavo a mangiare le costine. Okay. Quanto sono belle le balere? Sì. Ovviamente io aspettavo sempre che mettessero la musica quella lì, però non la mettevano mai, quindi mi facevo... No, io sono cresciuta in un paese piccolo, per cui mi ci buttavo dentro di solito. E come... no, non è che conosca tanto, ti dirò. Si balla perché il ballo arriva da dentro. Poi ci sono le persone studiate, gli anziani del paese, così, che sapevano danzare veramente, e ti rendi conto che se uno ti porta tu vai. Mi ha toccato una volta con una roba del genere col tango, che io sempre stata refrattaria, reticente a quelle cose dove bisogna imparare i passi, no, che proprio... E lì arriva la ballera spontanea, vedi? È perfetto. Quindi io posso fare lì tipo basta il tono? Il sì. Tono del tango, il tono del liscio, e poi anche se non so i passi vado lo stesso? Sì. Il senso è proprio quello. Credo, sì? Mi sa di sì. Sì, sì, okay. Anna? Sì, io dico di sì. Fatemi ancora entrare fatemi sentire qualcosa. Cosa cerco adesso? Allora. Bel sul ricercato, dai. Dai, andiamo un po' sul ricercato. Fai la prof. Dai, andiamo. Allora, Kronos Quartet. Col CH? Con la K. K-R-O-N-O-S. Kronos Quartet. Sì, c'è, ce l'ho. Waltz for Debbie. Waltz for Debbie, guarda, ma è famoso, allora, c'è già. vediamo se partirà con la pubblicità o senza. Ma è proprio un valzer. È un valzer, certo, che però si trasforma in jazz, e questa è la cosa interessante. Solo questo assaggio mi cambia completamente la postura. Vedi come cambia l'umore, è quella la cosa, cambia la musica e cambia l'umore. No, a parte il fatto, quello che mi interessa è proprio questo, anche la relazione col suono, con la musica, che non è necessariamente andare a tempo, a ritmo, ma proprio, cioè, come la musica ti cambia il modo di stare nel corpo, e quindi di conseguenza quando ti relazioni all'altro, quando lo incontri poi per improvvisare o per danzare, cioè non si può non innescare qualcosa che poi ti accompagna. È una cosa che magari ultimamente nel contemporaneo un po' si è dimenticato, questa risonanza col suono e con la musica. Può essere. È un'osservazione, che non è una critica, è solo un'osservazione. Sì, no? Sì, ci sono fasi, momenti. Come questa cosa veramente ti entra nell'orecchio e come ti cambia, no? E arriva fino ai piedi. Me questo qui, se ripenso alla serie di questi assaggi così diversi l'uno dall'altro, devo dire che forse il secondo, quello lì, mi ha lasciato un po' indifferente. Però tipo questa, il primo che era una era Casadei, no, era un valzerino. Quello lì mi ha tutto svegliato, tipo le orecchie, la parte alta. Questo qui, ma mi sono sentita le spalle abbassarsi, questo un po', sì. È così, tipo, questo ti va a viaggiare un po' come Fred Astaire, secondo me, sei un po' leggero, sì, è subito quello l'immaginario, sì. Qualcosa di etereo, sciccoso, esatto. Però se ti do, però aspettiamo che arrivi il jazz qua. Sta arrivando, eccolo. Monta un po' alla volta. Sì, monta piano piano, sì. E quindi anche l'improvvisazione cambierà per forza. Diventa ci vorrebbe il video, perché la dottoressa Albertarelli stava dando una mini dimostrazione agitandosi sulla sedia, ma Prego. Posso? Ecco, sì, diciamo che diventa una ballera spontanea teatralizzata, si può dire? Teatro fisico? Sì, però uno quando dice teatro fisico poi si spaventa, signora che non lo sa, spaventa, signora, vero. Quando sente parlare teatro fisico, che faccio? Poi mi butto addosso la gente, poi mi faccio male? No. No? No. Per te, tu come lo riassumeresti? Un concetto particolare di teatro fisico, Anna, però. No, non io. La signora che non sa che cos'è il teatro fisico. Ma infatti, come potremmo dirlo alla signora che va alla Balera ad ascoltare il valzerino, che in soldoni che cos'è il teatro fisico, lasciando perdere tutto quello che ci sta dietro, davanti, de lato? Diciamo, invece non è il testo, il corpo, ecco, possiamo dire così? Ci piace? Ecco, sì, che praticamente non c'è da imparare a memoria delle parole nell'ordine, ma da vivere le sensazioni nel proprio corpo, esatto. Quindi forse una partitura di emozioni. Una partitura di incorpori emozioni. Una partitura. Il corpo di una partitura. Incorpori una partitura. Ah, ok, scusami, devi un po' avvicinare di più quando... Se no poi si sente male, un in di qua invece... Hai ragione. Quindi incorpori... Una partitura. Un po' come quando incorpori il burro. Un po' come, ecco, per la signora quando avviene, un po' come incorpori il burro. L'uovo nell'impasto. Nell'impasto, esatto. Okay, sì. Dai, che la signora ci fa un baffo a tutte e tre. E quindi mi stavi guardando un altro brano? Poi però dopo il prossimo ascolto vorrei che andassimo un pochino più nello specifico e mi ci dicessi, ci svelassi qualche segreto su questo, aspetta, su questo percorso che comincia. Aspetta un momento, allora... Non c'ha molto multitasking qui la professora. Gaelic Storm. Aspettami! Gaelic Storm. Ok, Storm. Sokol. Irish Skoll. Sokol con la K. Sokolla con la no, Sokol. Sokol. Io c'ho un Sokolla. Ah sì? Qui c'è scritto Sokol. Però mi sa che non l'ho mica trovato, sai? No. C'ho degli Storm, ma non mi sembrano tanto. Però Gaelic Storm. David Gaelic, no? No. Attaccaci un Irish Party. Allora sì, l'avevo trovato all'inizio. Ok, c'ho l'Irish Party e andiamo con questo. Irish Party. Pubblicità? Non pubblicità? Non pubblicità. Mi gira la testa. Sì, mi gira la testa su questi qua, questa musica qui. Io più di due o tre giri non ce la faccio. Non ce la faccio perché poi mi prende così. Ma c'è anche la pizzica e la tarantella. Certo, ci sono anche quelle. Usti. Eh sì. Usti. Ho avuto anche una mezza litigatina con uno che mi aveva scritto su Facebook notificandomi di un corso per imparare la pizzica. Che gli ho risposto come grande puffo, tipo io, no, come puffo quello lì. Io odio la pizzica. Esatto, non l'avessi mai fatto. C'è una discussione, no, perché la musicologia, tu non sai quello che dici, tu questo con l'altro, tu sei un. Tra poco mi ha dato l'ignorante. Punti di vista. Va bene, insomma. Il mondo è bello perché vario, dai. Sì, va bene. Appunto, lasciando perdere queste mie particolari, raccontami come viene strutturato questo percorso di ricerca. Ma come viene strutturato il percorso di ricerca o la lezione? Ok, mi hai messo all'angolo. No, allora facciamo la lezione come parte del percorso. Mm-hmm. Cioè, ciascuna lezione immagino che abbia una struttura che si replica oppure anche quelle cambiano. No, dipende dalle persone che ci sono, perché in contesto ci sono sempre le stesse persone. Se poi che quello sarebbe l'auspicio. Sarebbe l'ideale. Continuare, no? Costruire, esatto, un gruppo per poi andare a spontaneare. Esatto, perché sennò poi devi ricominciare tutto da insomma, più o meno. Perché la cosa difficilissima in tutta questa faccenda è il fatto che devi improvvisare. No? Per chi già lo sa fare, quindi per i danzatori è materiale semplice, no? L'improvvisazione coreografica o improvvisare delle partiture. Per chi invece è abituato a fare i balli di coppia, i balli tradizionali o che sono abituati a imparare i passi a memoria, no? Devi fare avanti e indietro, no? Cioè, hanno bisogno di schemi precisi. Qui non esiste lo schema, no? Esiste la consegna, quella che noi in contemporanea diciamo ti do un task, no? Sì. Allora, c'è anche molto nel teatro fisico. Esatto. Cioè, vabbè, comunque, non so, faccio un esempio banale. Sara, confermi, no? Anche tu? Assolutamente. Puoi muoverti dentro un quadrato di, non so, 50 centimetri, puoi usare i piedi come vuoi, però devi seguire la musica, no? E nello stesso tempo devi guardare nell'occhio la persona e appoggiare ogni tanto un occhio solo e poi l'altro. Sto facendo degli esempi, no? Però sono delle consegne all'inizio molto semplici che però ti portano a gestire un'improvvisazione per chi appunto non è abituato a improvvisare, però nello stesso tempo avere anche un minimo di schema, no? Che può facilitare, immagino. Esatto. E del resto, se la consegna è quella di muoversi dentro un piccolo spazio pur stando al ritmo della musica, prima o poi becchi i passi giusti. Esatto. Però poi ti puoi anche muovere, dopo ti muovi anche nello spazio, però anche lì a seconda della musica che noi stiamo ascoltando, perché poi ci saranno anche momenti in cui ci mettiamo fermi e ascoltiamo la musica, cioè che cosa ti fa muovere questa musica irlandese che abbiamo sentito adesso, cioè dove la senti nel corpo, la senti nella testa, la senti nel petto, la senti nei piedi, che movimento ti fa fare, cioè che... Sara, tu dove la sentivi? La musica irlandese la sento nelle mani. Ah, infatti eri lì che quando nel video che pubblicherò che pubblicherò al più presto su www.coxospaziale.blogspot.com, dove potrete riascoltare la puntata, trovare i link per le cose di cui abbiamo parlato, nonché per lo spazio Sama, l'associazione culturale di cui Sara Giordani è la direttrice, che magari prima, visto che siamo in fase di chiusura, magari nominiamo un pochino anche di altri associati, di cose importanti. Sama è nato da un'idea di Mari Cassideri, carissima amica, compagna di cordata, pole e fisioterapista. Ah, tu fai pole dance? No, Marika. Ah, ok. No, io danzo, ma non pole, decisamente, danza contemporanea. E, a noi due ci sono unite poi Anna Albertarelli, Antonella Boccadamo, Carla Vannucchi, Alessandro Tampieri, unico elemento maschile in questo momento di tutto il gruppetto, e diversi collaboratori che passano, creano, seminano e poi tornano. E Sama ha una bellissima collaborazione e condivisione di spazio con Jaya, l'associazione Jaya, Giuditta De Concini, per la danza Bharatanatyam. Danza tradizionale indiana. Wow, sì, bellissimo. E con lo spazio collaborano anche per esposizioni artistiche, diversi artisti visivi, in questo momento soprattutto Valentina Crasto, Isabella Angela Germinario. Cioè, quindi qui Sara Giordani, tu sai che tu e anche alcune delle tue associate dovrete tornare a coxare presto, sì, e a raccontarci meglio nel volentieri dettaglio, magari una per una, tutte queste declinazioni con le prossime attività e quant'altro. Volentieri. Mi dispiace, ti è toccata. Anche a me un po', però ce la potremo fare. Anche perché probabilmente la prossima volta ci sarà anche Pasquini. E allora lì saranno cocci acidi. No, sto scherzando. Mando un bacionissimo a Pasquini che sta tornando per l'ennesima volta dal Piemonte. Anche noi. Saluti. Qua. Salutiamo anche Giffo. Giffo da dov'era? Da Treviso? Non mi ricordo, Giffo, però al prossimo coxo, tramite Pasquini, rinfrescami la memoria sulla tua provenienza. E poi salutiamo le Cadaveri Squisite, che anche loro ci torneranno a trovare. Magari diciamo quando inizia la balera? E ritorniamo qui per la chiusura con Anna Albertarelli, che è a Sama, in via Zamboni numero 72. Ah, proprio lì. proprio lì lì di fianco all'Accademia delle Belle Arti. Ecco, e inizierà questo percorso, dici? Martedì? Diciamo che ordinanze permettendo in questo momento... Fino adesso siamo fuori perché si parla della settimana Ventura, giusto? Sì, si parla di martedì prossimo. Mm-hmm. Sì, c'è la presentazione. Incontro e la presentazione è martedì prossimo alle 7. Ok, e ci auguriamo tutti che per la prossima settimana l'angolo della menzione possa tornare a menzionare gli eventi della settimana. E questo sarà uno. Ce lo auguriamo. Sì, magari anche con una telefonica, che sarete là in giro per il mondo. Allora, la puntata sta volgendo al termine. Ci sono cose che ci siamo dimenticate, pensieri? Altrimenti io chiederei di concludere con un ascolto. Forse quale potrebbe essere il più significativo? Il primo su cui hai fatto esperimenti? Oppure quello su cui hai sognato? Ma io ne metto uno... No, uno degli ultimi. Vabbè, perché poi si va perfezionandosi. Sì, ma... Allora, a me questo piace un sacco. Qui ho lasciato andare YouTube e dopo l'ultimo brano, qua adesso ci sono dei allora, tedesconi. C'è questo bel Balcaneros di Bregovic. Mm-hmm. Eccolo qua, lo vogliamo live? Sì, perché va bene anche live, sì sì. Mm. Finiamo... Finiamo in energia. Sì. Ok, allora questo 301esimo Coxo si è concluso. Ringrazio della loro simpatia, della loro freschezza e del loro coraggio Anna Albertarelli e Sara Giordani ad essere venute qui per questa puntata. E ci vedremo presto, vedremo noi tra di noi, perché voi tornerete, e ci ascolteremo di nuovo presto insieme ai nostri ascoltatori, che insomma speriamo che insomma li vogliamo bene. Vabbè, metto la musica. Incastrate, grazie a te, Fedra. Grazie Fedra, ciao a tutti. Let's not fast forward.